Radio Wombat. Ciao a tutti gli ascoltatori di 8 Hertz, siete su Radio Wombat, ascolterete 8 Hertz sempre solo su Radio Wombat. Vi avevo promesso mesi fa che vi avrei fatto ascoltare qualcosa tratto dall'ultimo disco degli Zoo, che si chiama Yator. Dovete sapere che è composto solamente da due brani, nell'EP un brano al lato. Vi faccio appunto ascoltare il primo, quello del lato A, che si chiama Sky Burial. Sky Burial sarebbe un rito tibetano che in italiano si chiamerebbe la sepoltura celeste. Praticamente il defunto viene scoiato e viene appeso ed esposto agli avvoltoi. Questo perché sembra un rito crudele, ma in realtà è l'opposto, ovvero il corpo è con la morte diventa solo un involucro inutile, ma che serve ad alcuni animali per continuare a vivere. Quindi è un atto di generosità da parte del defunto nei confronti della vita in sé, insomma, e continua, in questo modo si perpetra il ciclo della vita. Quindi, insomma, l'argomento è particolare. Il pezzo è molto differente dalle cose che hanno fatto gli Zoo in passato, che ricordiamo sono sempre stati sempre sull'orlo dell'estremo, o l'hanno anche superato attraverso il jazz core, poi sono diventati più metal, più sludge, un po' più ritmici, più quadrati, meno quadrati, hanno fatto di tutto e di più, e ad oggi si ritrovano a aver composto un disco che è ambientale, lento, quasi elettronico, anche se ci collaborano un sacco di musicisti, oltre a loro che sono Massimo Pupillo al basso, Luca Mai in questo caso all'elettronica e alla voce, c'è il batterista nuovo, questo è il primo album dove ci suona lui, che si chiama Thomas Jamir, che insomma suona anche nei Motor Psycho e in altri progetti. E poi come ospiti c'è Stefano Pili alla chitarra e tanti altri, tra cui anche Michiko Yagi al koto, che è uno strumento particolare cinese, mi pare. Comunque poi c'è la tuba, altri synth, insomma tanti strumenti. Ho letto una bella intervista fatta da Fabio Pozzi su IndieEye, la potete trovare online, e proprio alle domande risponde Pupillo. Insomma, leggetevela, secondo me è molto interessante. Appunto riguarda proprio il cambio di quasi, non vi dico di genere, ma comunque cioè sulla diversità di questo disco rispetto ad altri. Pupillo parla di Jung e dell'importanza della ricerca di sé anche attraverso la musica, per cui appunto lui parlava del processo di individuazione con il quale più scopri chi sei, meno somigli a qualcun altro ed anche a chi credevi di essere, per cui questa è una bella fonte di ragionamento sul sentire anche. E sulle dichiarazioni proprio degli Zoo, che questo album è un'affermazione della vita, della sua bellezza e del suo mistero, sempre Pupillo dichiara che questa cosa si riesce a conciliare con il rituale funereo tibetano. In ogni caso la musica è partita, buon ascolto. Thank you. questo pezzo fa veramente accapponare la pelle da quanto è bello e sentito, diciamo, sentito nel senso emotivo, emotivamente forte. E continuiamo con l'ascolto di queste brani lunghi che sono anche musica rituale, parlando proprio di un altro gruppo storico che si chiamano Painkiller, ovvero sono uno dei tanti progetti fondati da John Zorn, che è un sassofonista statunitense molto conosciuto per il suo modo estremo di suonare appunto il sassofono, facendo molto noise, cose velocissime, quasi al limite dell'inascoltabile, a volte anche affettato, insomma è stata una base un po' per tutti, Zoo compresi, insomma. Ha fatto tanti progetti e è anche compositore di musiche nelle quali non suona. Tra i più importanti appunto ci sono i Masada, che sono un gruppo, diciamo, jazz che a volte è acustico, a volte elettrico, quindi a volte suonano come Electric Masada. Tra le cose più estreme che ha fatto appunto sono questi Painkiller, che hanno iniziato a suonare nel 91 e i primi dischi erano suonati da Mick Harris alla batteria, che poi era colui che suonava nei primissimi album The Napalm Death, quindi inventore del grind, anche lui insieme a Justin Broderick, che ha collaborato anche nei Painkiller in qualche pezzo. E come bassista un altro famosissimo, che è anche un produttore, che si chiama Bill Oswell, di matrice più dub, diciamo. E il pezzo che vi metto, poi dopo, tra l'altro, negli anni dopo, verso i primi 2000, Mick Harris è stato sostituito da Tatsuya Yoshida, che è un altro nome enorme nel panorama del jazz core giapponese, soprattutto appunto suonato o suona negli Acid Mother Temple e nei Ruins, che forse vi ho già fatto ascoltare. Insomma, vi dicevo, questo disco è particolare perché a differenza dei primissimi due, questo si chiama Execution Ground, sono almeno la versione che ho, un doppio CD, i pezzi sono lunghissimi, dai 13 minuti in su. E il secondo CD, insomma, di questa edizione ha due versioni ambient di due dei tre pezzi che sono nel primo CD, e noi ci andiamo ad ascoltare proprio l'ultima traccia del secondo CD, che si chiama Parish of Tama Ambient, cioè la versione ambient del primo pezzo del primo CD, che è comunque molto dub e metallica. Buon ascolto. Thank you. per chi si fosse connesso ora, ricordiamo che questa trasmissione è 8 Hz e è su Radio Wombat. Radio Wombat che potete appunto trovare nel sito No Blogs, che conoscete bene, altrimenti non lo potevate ascoltare. E però vi do anche gli altri indirizzi, i contatti vari, per cui scrivete a postawombat@insiberia.net per proposte, critiche o quant'altro, o anche gesti di stima e di affetto. Potete vedere la programmazione di cosa parleranno le puntate via via nelle notizie su Facebook, quindi basta che cercate Radio Wombat Firenze all'interno di Facebook, o su Google lo trovate, così come anche nel Twitter, che è Radio Wombat Fi. Ancora devono partire le nuove trasmissioni, ma è questione veramente di 1 o 2 settimane e partiranno, così saprete anche un po' quali sono le novità di quest'anno, oltre alle stimate trasmissioni dell'anno scorso, anche perché quasi ci siamo, a novembre si festeggia il primo anno di attività. E con questo vi saluto mettendo l'ultimo lungo pezzo, diciamo. Tocca mettere un'altra volta Dalek, anche se questo pezzo non l'avete mai sentito, ma Dalek spesso nella trasmissione 8 Hz l'ho messo varie volte, anche perché credo che sia uno delle poche proposte del panorama attuale che veramente mi piace tanto, e quindi tengo anche a fare ascoltare agli altri. Dalek, vi ricordo che appunto è questo MC del New Jersey che dagli anni 90 che si cimenta con queste formule personali di hip hop e di rap, tant'è vero che proprio è veramente molto sperimentale come cosa. Ha fatto dei dischi che sono molto rumorosi, quasi suoni di segheria, ma in realtà, come ha spiegato, sono milioni di voci sovrapposte, di tracce sovrapposte. E questo brano invece è praticamente il lato A di questo album, che si chiama Untitled, del 2010, anche se è stato registrato nel 2005, che è una cosa appunto che ci sta con gli altri pezzi, e questo è il filo d'unione di questa puntata di 8 Hz. Se provate ad ascoltarla senza la mia voce fastidiosa, troverete un po' questo viaggio che spero vi facciate comunque, e quindi chiudete gli occhi e ascoltate questo brano, questo il lato A, praticamente la prima parte di questa lunga traccia che si chiama Untitled, che hanno prodotto lui, Dalek, insieme a Octopus, che è insomma il suo braccio destro almeno per gran parte della produzione. Un saluto e alla settimana prossima. kept isolated, these sounds hold no wisdom. Own frown worn of habit, habitat erodes to points past tragic. Fragments of meaning cling to tongue like flesh to bone. Prolong our suffering, please. It reminds me to breathe. Beneath the handshakes, tirade shape, fragile friendships. Watch who you call kin, for few deserve respect. And it'll be those you adore who in final act attack with knives and bats. Basic human nature to being human. Love looms in shadows, truth's face veiled from angelic eyes. Hope evaporates like morning dew past sunrise. If all we can do is try, then why even bother? Fodder for conversation, a true exasperation, achieve the third marker. Are we actors or scholars, winos or warriors? Wishful thoughts have only led to inaction, and so thoughtless acts of violence paint our grim future. Beware the fruits of knowledge, the type of lesson to teach our young. Average men sent to certain demise just to fill our casket quota. They say the answers will be evident once we are older. I feel too old. I feel inept to achieve heights of dreams of forefathers. Have we spent so long on knees that we forgot how to walk? The ancients talked of a nirvana, perhaps none are privy to see. Candlelit thoughts rise with smoke and sacrifice for well-worn altar. My altered perception has this graveled floor as our only heaven. Wonder and awe lost to youthful sight, I invite us all to sink deeper. Leathered tongue to match facial features, greet us with warm embrace. What we would retrace our steps, they would lead us to the first time we cared to listen. Envision valleys from which we only heard echoes of life, lived a million times. Stones erode to show us how we all succumbed to elements, forgave the ones whose name became irrelevant. As I crawl closer to the very core of what I despise, that dream deferred of Langstonian lore might as well be myth. Seems we have awoken only to be put to bed once more. A dream forgotten amidst jewels soaked in our own blood. Precious necklace to replace weathered noose. As history fades into the drunkard's mind, we choose what nightmares to forget, what lie to remember. It's quite easy to forget who you are. The remnants of my life scattered at feet like offerings to Mayan gods. Hands hold weighted face in hallways that echo muffled sobs. Thank you. perception has described floors all.